disco sul quale scrivere la lista delle tue certezze, è un buon modo per capire quali siano ancora le stesse, quali rimedi metti in discussione, a quali dai credito e ragione. Un'altra notte per decidere quale futuro meritare, senza per questo uccidere o doversi sporcare, che poi alla fine non c'è nulla per cui valga la pena. Quante volte sei rimasto legato ad un passato che non ti ha risparmiato lacrime, quante occasioni hai sprecato, verità ignorato, per orgoglio chissà quali anime. Quanti sogni hai tradito, sentimenti sfiorato, per ideali che non ti appartengono più. Credici che possa esserci un'altra occasione.